Beh, parole di capitano, quello di Elisa Santoni. Il prossimo obiettivo nel mirino, quasi banale dirlo, però è Londra 2012. No? Per molte di voi sarà anche una data di svolta, perché qualcuno appenderà clavette e cerchi al chiodo, immagino. Beh sì, prima di Londra ovviamente avremo un importante appuntamento quest'anno, perché ci sarà l'ultimo mondiale di qualificazione a Montpellier in Francia a settembre. Quindi sarà un importantissimo appuntamento. E poi ovviamente l'anno successivo ci saranno nuovamente le Olimpiadi a Londra. Speriamo ovviamente di puntare sempre più in alto e tra i primi posti, e di riscattarci un po' del risultato che abbiamo ottenuto a Pechino. Poi, almeno per quanto mi riguarda, penso che quello sarebbe il mio sogno, il mio obiettivo più grande, arrivare a Londra e riuscire a riscattarmi. Poi però c'è anche un altro Sanremo, visto com'è andata quest'anno, magari vi riconvocano nel 2012. Speriamo, noi siamo sempre pronte e entusiaste di poter fare cose del genere, di poter abbinare comunque alla nostra disciplina anche queste esperienze. E ritieni, Elisa, che in futuro, una volta lasciata l'attività agonistica, il mondo dello spettacolo possa essere un approdo, una possibilità anche per una campionessa come te? Ma perché no? Nel senso, ora non ho degli obiettivi, o comunque nel senso vivo un po' alla giornata, non ho ancora pensato bene al futuro, però voglio tenermi un po' di strade aperte, perché voglio fare nuove esperienze, provare a vivere diversi ambienti magari, perché no, non sarebbe una cattiva idea anche quella. Intanto un grazie a Elisa Santoni, capitano della nostra nazionale di ginnastica ritmica, per essere stata ospite grazie di Radio a 24 voi. A Bordo Campo, e in bocca al lupo per tutte le sfide delle farfalle d'oro. Grazie. A Bordo Campo. Attenzione, stanno entrando i ragazzi della Maxi Bassa. 3 milioni di partecipanti. Beh, non stiamo parlando della maratona di New York né di qualsiasi edizione dei giochi olimpici, o meglio sì, parliamo di una mini olimpiade che in realtà quest'anno taglia proprio il traguardo prestigiosissimo del 3 milionesimo partecipante. Non è nella gloriosa Atene, non è appunto a New York, ma si sviluppa questa mini olimpiade a Milano, e parliamo di quei trofei di Milano, i campionati interscolastici di atletica leggera per le scuole elementari e medie della città, meglio conosciuti proprio come mini olimpiadi, che quest'anno sono già partiti, tagliano la 48esima edizione. Allora, nostro ospite qui a Bordo Campo per parlare di questa iniziativa, ma anche di Milano, dello sport e del rapporto tra sport e cultura, è Franco Ascani, membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del Comitato Internazionale Olimpico e ideatore e promotore delle mini olimpiadi fin dalla prima edizione nel 1964. Beh, presidente, da quell'anno ne sono passati di atleti sotto quel traguardo, eh? Sì, innanzitutto buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo ancora un po' con la voce rauca, perché 48 ore or sono all'arena abbiamo urlato per festeggiare questo 3 milionesimo partecipante. Eravamo nel 1964 quando abbiamo cominciato in un campo di periferia, il campo Cappelli, nella zona del Ticinese, sulle macerie della guerra che era passata da poco, ed era un momento per avvicinare dei giovani allo sport. Abbiamo lanciato questa idea, era il pomeriggio, perché al mattino l'orario scolastico non si poteva fare, e da lì abbiamo cominciato con le scuole superiori e poi via via siamo passati alle medie e alle scuole elementari, e attualmente sono come si chiamano le scuole primarie o secondarie, che sono in campo con delle attività della disciplina più semplice, la disciplina della corsa, la disciplina che non ha bisogno di grandi impianti sportivi e che vede nella Napoleonica Arena il suo epilogo importante, con la partecipazione di mediamente ogni anno di 300 scuole, oltre 90.000 sono gli atleti gara. Ecco, presidente, tanti alunni atleti, ma anche tanti campioni e personaggi illustri dello sport e non solo, no? Che sono cresciuti attraverso le mini olimpiadi. Sono passati, diciamo, dei nomi che allora io ricordo, perché io sono quello dalla prima edizione, quindi ricordo quando un ragazzino del Leonardo da Vinci di Milano, si chiamava Paolo Maldini, ma nessuno sapeva che poi sarebbe diventato, era solo famoso perché era figlio di Cesare Maldini, che viene a partecipare a questa manifestazione, che poi più tardi Fulvio Collovati, che diventerà campione del mondo nell'82, e poi, non so, per dire, Marisa Masullo, un atleta che vince 39 volte il titolo italiano della velocità nei 100 e nei 200, che hanno cominciato lì all'arena con l'emozione di questi ragazzi che si avvicinano per la prima volta, e con i genitori che fanno il tifo sugli spalti, e con, diciamo, sono passate un paio di generazioni, oggi ci sono già i figli di quelli che hanno partecipato, è passata gran parte della Milano, Milano della città e anche dell'Interland milanese. Ecco, nella nostra introduzione sottolineavamo come questo traguardo sia del tutto sorprendente, sia in termini numerici, sia anche perché avviene a Milano. E mi spiego, città che ha ambizioni di essere capitale europea, uno dei grandi centri del continente sotto molti punti di vista, ecco, dal punto di vista dell'impiantistica sportiva invece sicuramente è nella fascia bassa della classifica continentale, no? È un paradosso questa delle mini olimpiadi, o è quasi un gesto di ribellione per una situazione impiantistica che non trova mai soluzione, Presidente? Ma intanto dobbiamo dire che qui ci sono due fasi, c'è stata una prima fase in cui la crescita dei trofei di Milano più sport con i giovani andava di pari passo con la crescita degli impianti a Milano, ricordo le 6 piscine periferiche, il centro sportivo Saini negli anni 70, il Palasport, quello che non c'è più, di San Siro, anzi proprio lì avevamo disputato le gare indoor dei trofei di Milano, e si arriva fino a un certo punto, si supera gli anni 80, si arriva alla soglia degli anni 90 e poi gli impianti svaniscono nel nulla. Milano si è un po' addormentata su questa cosa, e quindi quella che noi chiamiamo l'impegno educativo, l'impegno sociale, che viene attraverso l'impegno di migliaia di volontari, che centinaia di volontari che reggono la sorte dello sport in Italia, si vedono un po' sacrificato dalla carenza della struttura, strutture che di fronte a una domanda crescente invece ci troviamo ad una proposta che non è assolutamente crescente. Ecco, Presidente, ma come si può risvegliare questa città e quali possono essere le soluzioni? Ecco, a livello anche di CIO, c'è in qualche modo un dossier Milano sul tavolo? Ma diciamo innanzitutto che il Comitato Internazionale Olimpico dà un grande occhio di riguardo ai giovani. Se noi pensiamo che proprio a Singapore la scorsa estate sono disputati i primi giochi olimpici della gioventù, proprio che hanno le stesse caratteristiche dei giochi, diciamo, tradizionali, e che hanno visto una grandissima partecipazione da tutto il mondo, devo dire che l'Italia, che sia pure ha portato a casa anche qualche medaglia, non è che si sia entusiasmata a partecipare, si mandiamo dei ragazzi a Singapore, e cioè mentre da un lato c'è questa crescita e il CIO sta spingendo affinché proprio sui giovani si facciano degli investimenti, sui giovani, perché diciamo che il sostegno educativo, le attività formative, sviluppare, non so come dire, quei valori sociali, rispetto delle regole, la solidarietà, l'aggregazione sociale, l'autostima, e chi più ne ha più ne metta, e poi soprattutto noi dobbiamo tener conto di chi regge le sorti di questo sport, dicevo prima, di questo volontariato attivo che viene un po' sacrificato, se non aiutiamo queste persone che hanno i capelli bianchi come me, va a finire che di giovani che vengono a fare i volontari ce ne sono sempre meno. Le chiedo invece dal punto di vista del rapporto con le istituzioni, si vede un punto d'approdo, un orizzonte in vista, cioè un qualcosa che possa sbloccare questa situazione di paralisi degli investimenti per quanto riguarda l'impiantistica milanese? Se ne parla, devo dire, questo se ne parla, io però non sono molto entusiasta, perché finché se ne parla io preferisco vedere strutture, si parla di ristrutturare a Milano il Paralido, si parla di rifare il campo 25 aprile, si parla di riassestare e di ammodernare degli impianti sportivi, si parla poco di nuovi investimenti. Di nuove strutture, le strutture, come ho detto, risalgono a qualche decennio fa. Quindi i ragazzi, le famiglie, i giovani, cioè se noi riusciamo a spingere, e rispondo alla domanda precedente adesso, a spingere a questa cultura dello sport, che non è solo la cultura del calcio o la cultura di sport business, ma la cultura dello sport sociale, di inclusione sociale, di partecipazione, di investimento, innanzitutto di riduzione dei costi di quelli che può essere poi l'assistenza medica in futuro. Ecco, se ragioniamo in questo modo e se i nostri amministratori riusciranno a capire questa cosa, noi ci auguriamo che ne tengano conto, anche perché se lo Stato sta tagliando su una serie di investimenti, su questi non si può tagliare, perché qui è il futuro, è l'investimento, sono i nostri figli e tutto quello che riguarda il futuro della città e dei giovani. Allora, Presidente Ascani, grazie per essere stato nostro ospite, però ci dica anche a questo punto qualche anticipazione sull'edizione 2012, immagino che già ci starà lavorando. Intanto volevo mandare un messaggio a molti di questi 3 milioni che magari ci stanno ascoltando, che non ho potuto raggiungere. Noi abbiamo messo anche su Facebook, abbiamo un sito che si chiama sportmoviestv.com, dove ci sono le classifiche, i nomi, per poter creare questa community di tutte queste persone che hanno partecipato. Per il 2012 adesso dobbiamo finire, abbiamo fatto queste due giornate, abbiamo a marzo altre due giornate, il 16 e il 18, abbiamo a maggio la maximazia della scuola, il 28 maggio la grande premiazione alla sala congressi della provincia e poi dopo intanto valuteremo il da farsi per il futuro. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi, con me, con la nostra redazione attraverso il blog di A Bordo Campo che trovate sempre sul nostro sito. Vi do appuntamento come d'abitudine a domenica prossima, sempre alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto da Dario Ricci.